Rock FM, o meglio, pane, burro e rock and roll, sono le 8. Benvenuti alla nostra colazione. Rock and roll. Servita fresca fresca dalle frequenze di Rock FM. Colazione rock. Iniziamo ufficialmente la seconda ora. Stamattina ascolta rock. Iniziamo al meglio, visto che abbiamo appena tenuto a battesimo un nuovo amico di pane, burro e rock and roll, Matte, 13 anni, che ha iniziato da qualche prova a mettere sulla sua band. Ci chiedeva di trovare il nome della band, ho già una sfilza di nomi. Tra l'altro mi complimento, perché a volte faccio lo spiritoso, i radioascoltatori di pane, burro e rock and roll sono messi male, invece tranquillo, cioè idee buone, nessuno è stato offensivo, complimenti. Affronteremo con calma questa cosa, anche a voi della seconda ora, se vi va di partecipare, abbiamo da tenere a battesimo una band di sbarbati, insomma, 13 anni, vanno in terza media. Stanno iniziando, ma sembra inizino col piede giusto, perché Beatles, Hendrix, Dylan, insomma, sembra che siano sulla strada giusta. Questa seconda ora vedrà probabilmente la nostra portinaia di riferimento, la Sciura Carla, dare finalmente lei i numeri dell'otto. Nella prima ora abbiamo licenziato Carlo, che continua a darci dei numeri sbagliati, invece lei li azzecca, quindi tentiamo di prendere i suoi. Abbiamo da sentire Andrea 147, che lanciava settimana scorsa, che ha lanciato il sondaggio per i colletti bianchi all'ascolto. Ehi tu, che non sei sporco, brutto e cattivo, ma sei un rocker, qual è la suoneria del tuo cellulare aziendale? E poi ancora tante cose da combinare in questa seconda ora, che inizia con un'altra novità. Abbiamo chiesto al collega Mox Cristadoro, colui che sentite da mezzogiorno alle 2 con la grande musica di Easy Rider, di darci una mano anche nel mattino di pane, burro e rock and roll. E quindi iniziamo con un brano segnalato dagli amici di Easy Rider. Potrebbe essere il brano da sciacquarsi la bocca? Vediamo. ...1968... si chiamano Spirit, il brano era Fresh Garbage, brano consigliato dagli amici di Easy Rider. Ringraziamo Mox Cristadoro. Iniziamo questa jam session con gli amici di Easy Rider, vecchi colleghi, visto che per anni sono stato spalla e regia il buon Mox Cristadoro. Ricorderete anche questo frammento? Deve essere stato rubato tipo da Pink, una roba di questo tipo, di qualche singolone dell'ultimo momento. 3351007777, sei un vero rocker oppure no? È duro essere un vero rocker oppure no? Scopriamolo insieme. A pane e burro, rock and roll! gioite amici là fuori, gioite amiche là fuori. È arrivato l'arrotino. No, no, l'arrotino ombrellaio. Intanto le viene fuori. Buongiorno maestro. Buongiorno. Bentornato nel nostro gabbietto. Senta qua. I have a dream. Lo conosco benissimo. Sì, ho un sogno. Cos'era? Sì, frase era, celebre. Sì, era detto da Mastrotta quando fa la pubblicità dei letti. No, Martin Luther King. Martin Luther King. Sa esatto. Perché ho iniziato così questo intervento? No, me lo dica. Perché proprio oggi, il 15 di gennaio del 1929, nasceva il celebre attivista e presbitero statunitense Martin Luther King. Presbitero. Sì, lei sì. Mi dice presbitero, sì, e allora Mike a questo punto direbbe sì. Probabilmente presbitero, perché a quei tempi non c'erano occhiali abbastanza capaci per risolvere il problema. C'è un piccolo equivoco, ma farei finta di niente, e andrei avanti. Ecco, quanti passi da gigante ha fatto la nostra medicina da allora. 1941, proseguiamo con i compleanni del giorno. Capitan Beefheart, pseudonimo di Don Van Villet, cantante, musicista, pittore statunitense. Ma sì, un grande creativo, musicista, amico di Frank Zappa, un amicone di Frank Zappa. Fece anche un disco dalla copertina esaltante, dove lui aveva queste ali gigantesche in una figura dorata. Insomma, la sua copertina rimase famosa, ma anche i suoi interventi, i suoi exploit musicali. Cuore di manzo, Beefheart, capitano cuor di manzo. Ottimo nome, quasi meglio di Frick Antoni. Sì. Proseguiamo con un altro super rocker. Nasceva il 15 gennaio del 48, Ronnie Van Zant, cantante statunitense. Dei? Me lo dica? Leonard Skinner. Ah, che pronuncia, come mi piace quando lo pronuncia. Leonard Skinner. Ronnie Van Zant purtroppo poi è scomparso nel 77. E chiudiamo. Sweet Home Alabama. Chiudiamo, dicevo, con il nostro giornalista televisivo di riferimento. So essere uno dei suoi giornalisti preferiti. 1955. Enrico Mentana, auguri Enricone. Auguri Enrico. Quando vuoi scrivere un pezzo su Pane Burro Rock and Roll, fai pure, sì, sentiti quando, libero. Anche quando, non so, nel caso volessi organizzare una trasmissione di Matrix su di noi, su Pane Burro Rock and Roll, sui giovani alla radio, ci la radio siamo, i giovani. Ci fosse un posto per il nostro redazionista Isaac Rizzi, tra esatto, l'altro ci fa esatto, sapere. Come testa di ponte e poi dopo di Chicco Mentana, Chicco, un bacione, eh. Auguri. Auguroni, ricordati di noi, Enrico. E me, che c'è? Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. Ooh-hoo. I'm all shook up. Re del rock and roll, Elvis Presley. Ne approfitto per fare gli auguri di compleanno a Maurizio Faulisi. Almeno così sembra recitare il calendario 2008, l'anno della svolta. In questo 15 di gennaio è segnato Faulisi, quindi su Elvis. Saluto il nostro collega notturno Maurizio Faulisi, ma occupiamoci di altro. Spesso e volentieri abbiamo spiegato come per pane, burro e rock and roll il lotto sia rock. Ci ha sempre aiutato Carlo, il nostro tabaccaio, dando dei numeri rock che poi non uscivano mai, che ogni settimana cambiavamo, anzi due volte a settimana. Però nel corso di quella rubrica siamo venuti a conoscere un'altra persona, un altro personaggio di pane, burro e rock and roll. Buongiorno sciura Carla. Buongiorno. Bentornata. Allora, finalmente, dopo mesi e mesi che le stavamo dietro, ha accettato di darci i suoi numeri per il lotto. Però giustamente ha le sue regole, Carla. Io sì, ho le mie regole. Perché so che le ha sempre fatto arrabbiare questa cosa che noi il martedì davamo dei numeri e il giovedì degli altri. No, certo. Non si fa. Non si fa così, perché se no uno che li gioca deve continuare a cambiarli. Esatto. Non vincerà mai. Quindi io ho accettato, io ho dato carta bianca, Carla. Noi facciamo tutto quello che vuole lei. No, allora, io do i numeri, sì, io, almeno io quando gioco i numeri, sì, vado avanti per 3 o 4 volte, anche 5. È giusto. Quindi allora così si prende. Esatto. No, ha ragione, ma guardi, ormai noi siamo in squadra con lei. Carlo l'abbiamo già licenziato, ha sentito? No, non l'ho sentito. L'abbiamo licenziato alle 7:30, così gli abbiamo detto non ci servi più, tanto ce li da Carla. Abbiamo fatto così. Sì, perché lui ha continuato a insistere. Hai capito? Poi vedremo con Carlo come giostrarci. Tra l'altro, l'altra cosa che segnalava in fuori onda è che con Carlo davamo numeri spiegando anche perché, inventandocelo così sul momento. Lei dice no, i miei sono... No, io vi do i numeri vi dico dove vado a prendere. E voi vi accontentate. Ecco. Io sono pronto, carta e penna ce l'ho, Carla, veda lei. Ok, allora, Palermo. Sì. E nazionale. Palermo e nazionale, da già questa non capisco, vuol dire Palermo e tutte? No, Palermo, tutte e nazionale, perché adesso c'è la ruota nazionale che va per sé. Ok, io mi fido, qua riscrivo, Palermo, tutte e nazionale, numeri? Allora, 44, vi do un terno. Vai. 44. Come i gatti. 8, eh? 53. Allora, questo è il terno di Carla. Sì. 44? Però... Sì. Faccia giocare anche l'estratto a Bari, alla nazionale. Carla, già è troppo difficile, io non ci capisco niente, ma continuo a segnare. Allora estratto. Sentire, sì. Estratto, Palermo e nazionale. Ok, sì. E poi si gioca il terno. Sì. 44, ma... 8, 53. Ma l'estratto Palermo nazionale non è un numero diverso? No. Allora, l'estratto è il 44. Ok. Che esce. Se esce quel numero lì, uno mette 2 euro, sì, e prende 21. Buona. Okay. Ecco. Hai soldi da giocare? Sì. Ecco. E poi gioca il terno. 44, 8, 53. A chi è interessato sa come funzionano ste cose, certo, quindi è a posto. Certo, è a posto. Carla, ti ringraziamo del servizio, ci sentiamo poi magari giovedì per vedere se mantieni questi oppure me li cambi, ma è impossibile, no, perché li terrai. Voglio giocarli almeno 3 volte. Vai bene. Almeno che escono stasera. Che già. Benvenga. Sarebbe un po' troppo, eh. Benvenga. Carla, buona giornata. Grazie. A presto. Ciao. Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him surfing at inside, outside USA. Enter a county line, inside, outside USA. Santa Cruz and inside, outside USA. Australia, the inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down the Hemingway, inside, outside. Everybody's gone serving USA. We're serving USA. Hang your USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA. Se ami il metal è una certezza. Non sto parlando di Marco Garavelli, ma di un piccolo ragazzino di riferimento di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Ha già capito. Ho come l'impressione di sapere di chi sta parlando. Il nostro giovane monello di riferimento. È proprio disastro della natura. Dovrebbe essere con noi Francesco. Pronto? Ci Francesco? Sei? Pronto? Ma non fai la canzone. Perché eri distratto? Sono un po' emozionato. Stai distratto oggi? Hai la testa fra le nuvole. Cos'è successo? Hai composto un nuovo brano metal? No, mi vergogno un po'. In che senso? Una poesia? Mi sono innamorato. Ma come? No! Che tenerezza! Ma dai, finalmente! Complimenti! Erano mesi che te lo dicevamo che prima o poi di una ragazza ti saresti innamorato. Com'è? Allora, è arrivata, no? La nuova compagnuccia. Sì. Si chiama Demonia Blind Guardian. No, che già il nome ti arrapava subito. Ti piaceva molto. Demonia. Allora sì, Demonia Blind Guardian. Sì. Viene dalla Svezia. E lui in Svezia c'hanno il metal norvegese, no? Certo. Ecco. C'hanno quello allora, svedese. Sì, allora, la prima volta che mi ha visto. Sì. Pensa, ma sputami un occhio. No. E questo ti è piaciuto, non negarlo, ti è piaciuto questo. Sì, la seconda volta mi ha fatto vedere la fregna. No, ma dai, Francesco. Che non ti è mai piaciuta, tra l'altro. Vabbè, ma cioè, perché. Fino a ieri almeno. Di Demonia, dai. Tra l'altro c'è da dire che questa cosa dell'innamoramento lo fa sembrare un ragazzino sei più tranquillo, Francesco. Sì, è vero, più sensibile. Sì, più tranquillo del solito, meno agitato. Sei distratto, un po' fra le nuvole. Però gradevole perché sei meno assatanato del solito. Che dice Demonia? Ma voi chi siete? No, siamo qua. Ciao. Che sei distratto? Sì, e poi dice che il Demonia dice che i Megadeth e i Motley Crue. Sì. Che sono metal? Sì. Fanno schifo. No! E questa cosa. Però anche i gruppi metal sconosciuti, no? Quelli che conosce lei, no? Sono mille volte meglio. Allora mi ha fatto sentire gli Adamantium Sodomi. Sì. I Blindfolded Escapology of Jesus Christ. Sì. E gli Alkaline Judgment Day. A me l'ha fatti sentire. E com'erano? Ecco come ti ha conquistato. Ah, com'è? Mi pare che senti un radiatore rotto. Un radiatore rotto. Ah, questa rotto, è la tua definizione di quel genere. Sì. Vabbè. Sai, mi piace. C'è da dire che ti piace lei, quindi ti piacciono un po' anche quei gruppi lì. Ti ha conquistato, Ma tutti i Blindfolded e Scafology of Jesus Christ. Quelli ti piacciono parecchio. Tu, i Motley Crue, non hai cercato di farglieli risentire con nuove orecchie? Che quante ce n'ha due? No, te dico con orecchie nuove. Che cazzo, già metal. Che cazzo, quattro orecchie. No, senti, va bene. Senti, mi è venuta quest'idea. Ah, quale? Sì. Io proprio lo sto venendo a suonare tastiere nel mio gruppo. Vero? Bello. E lei cosa ha detto? Ti ha sputato? Crew, sì. E lei ci è venuta. Ma dopo 5 minuti? Ha spaccato la tastiera sulla capoccia del batterista rap. Aia. Perché non sopportava il batterista rap. Esatto. Tra l'altro, oggi io vado a merenda a casa sua. Di chi? Di lei o del batterista? No, che cazzo me frega del batterista rap. Magari stava male. A casa sua. Sì. Mi fa pane e Nutella metal. Buona, dai. Ammetto che non lo sapevo com'è la Nutella metal. No, non lo sappiamo e non vorremmo saperlo. Ma appunto dico, Nutella metal è fatta con nocciola, cacao e pezzi di marmo. È un po' duretta da mandar giù. Esatto. E saluto che è venuta qua a metto a offrire la merenda. Vabbè, senti, la merenda, il panino va frittato di cicoria. Senti, dimmi una cosa in chiusura, velocissima. Ti ha conquistato quando t'ha sputato, di la verità. Quando t'ha sputato hai capito che potevi amarla. Sì, soprattutto perché me l'aveva strappato il cuore a piene mani. Ho capito. Con le mani me lo volevo strappare. Esatto, un gesto molto heavy metal. Ciao Francesco, salutaci. Ciao, sei sempre heavy metal. Pane, burro, rock and roll. è arrivato il test attitudinale. Il test attitudinale, donne. L'arrotino, se anche avete coltelli, però, forbici, sì. Anche per gli uomini. Per tutti i rocker là fuori che vogliono sapere tutto del rock and roll. Tutto e di più, cioè, del rock. Una domanda, tre possibili risposte, se azzeccate, due punti da accumulare per poter avere prima o poi, chi lo sa, la patente davvero rocker. Una sola risposta giusta, due sbagliate che a volte si assomigliano, quindi attenti a non farvi trarre in inganno nel tranello. Oggi parliamo di un classico imprescindibile per la storia del rock, ovvero Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay. Grazie. Wasting time. Va bene, proseguo. Sapreste non dirci... ha parole. No, veramente parole. Le ho tolto le parole. Sapreste dirci quale aneddoto è legato a questa strepitosa canzone? Forse ipotesi A. La canzone non è mai entrata nelle prime tre posizioni di nessuna classifica musicale. Oppure, ipotesi B. La canzone venne fermata dalla censura di ben 12 stati americani con l'accusa di propaganda razziale. Oppure, ipotesi C. Otis Redding, il suo cantante, morì tre giorni dopo averla incisa. Il suo interprete Otis Redding morì tre giorni dopo. Quale dei tre aneddoti legato a Sitting on the Dock of the Bay è vero? La A, la B o la C? La resta... soluzione? A tra poco, la risposta esatta a? Dopo. Dopo! Restate con noi!